signore, per ristorarvi ho un boccal d'acqua fresca, io posso darvi che barbara contraria. Ma che bene, che di un balzo nel cielo caduto in terra. Oh cara, oh bella, oh amabile conchiglia, Eritrea Maremma, tocchiamoci la mano. Ah, taccio un poco e lasciate prima, mio signor, che io sappia la vostra condizione, a ciò possa trattarvi con il compasso e mal di provazione. Io sono cara il conte Perughetto, e purtroppo in passato da spirito vagabondo vado girando il mondo. Conte, ma se qui a piombo io mi piego al rettangolo, ma ahimè, ahimè, aiuto, fugo dai ladri e qui son dati in mano degli assassini. Assassini, assassini. Ma chi sono questi? Gli occhi tuoi sono gli assassini miei. Qui bisogna spezzarlo. Padre mio, i ladri sono fuggiti, potrebbe continuare i suoi viaggi. Io partirmi di qui, nemmeno gli argani mi staccheranno la bella mia. E già credo che le mie si gelosia, mi voglio divertire. Ma padron caro, qui non ci sono canne. Ebbene, vera in tua casa. Oh, vorrete me? Ma in casa mia vi sono donne. Meglio, meglio. Orsù signora, io son già risoluto di innamorarti. Io voglio vederti al mio trionfo, incatenati al carro. Mi va piacendo, questo tormentarlo. Signor conte, in grazia, col permesso che voi mi favorisca e guardandomi in fronte, sento il mio sentimento. Signor conte,